L'ho comprato al mercato dell'usato riciclato, poi a nuovo l'ho tirato, ripulito e lucidato. L'autoradio ci ho montato e due casse da esaltato, vetri scuri, cerchi in lega, porta bibite cromato. Quando un bruto l'ha graffiato mi son proprio infuriato, non so mica chi sia stato, ma di certo un immigrato. Sì, è il mio SUV, proprio il mio SUV, guarda che SUV, è un gran bel SUV. Sì, è il mio SUV, proprio il mio SUV, guarda che SUV, è un gran bel SUV. Con il mio SUV mi sorpasso da destra, con il mio SUV vado in palestra. Con il mio SUV non mi faccio mai male, se mi incroci la strada vai all'ospedale. Con il mio SUV son veloce e potente, con il mio SUV duro e prepotente. Con il mio SUV la facciamo finita, ti frego il parcheggio, ti inquino la vita. Sì, è il mio SUV, proprio il mio SUV, guarda che SUV, guarda che SUV. Sì, è il mio SUV, proprio il mio SUV, è un gran bel SUV, è un gran bel SUV. Certo il mio SUV fuma più di un vulcano, ha l'impatto ambientale di una bomba a mano. Con quello che chiede la sua costruzione ci potrebbe vivere un'intera nazione. Ma con il mio SUV ti sorpasso da destra, con il mio SUV io vado in palestra. Con il mio SUV non mi faccio mai male, se mi incroci la strada vai all'ospedale. Con il mio SUV son veloce e potente, con il mio SUV duro e prepotente. Con il mio SUV la facciamo finita, ti frego il parcheggio, ti inquino la vita. Sì, è il mio SUV, proprio il mio SUV, guarda che SUV, è un gran bel SUV. Sì, è il mio SUV, proprio il mio SUV, guarda che SUV, è un gran bel SUV. Lei non sa chi mi credo di essere, con il mio SUV.